Un musical di famiglia perché è nato in famiglia e nessuno di noi forse sognavamo, ma nessuno di noi pensava che diventasse quello che è diventato un colossal, perché praticamente, come dicono, l'appetito viene mangiando, no? E noi siamo partiti dall'idea di scrivere, sì, io sono partito scrivendo 2 ore di musica inedita e dopo aver letto il romanzo di Matteo Strucul, che è un romanzo su Casanova, per cui dove la storia non reggeva, lui probabilmente ha inventato qualcosa, ma potrebbe anche essere andata così, per cui è molto credibile. E poi, sai, è cresciuto piano piano, allora abbiamo capito che stava diventando veramente bellissimo, allora le scenografie dovevano essere fatte da qualcuno di forte, siamo andati dallo scenografo della Fenice, Massimo Checchetto, e allora poi le musiche, sai, c'era il rock, il sinfonico, ho detto dobbiamo farle bene, allora orchestra sinfonica e band rock insieme, 80 elementi sul palco, e poi la copertina. Cioè, io sono veneto e voglio un altro veneto che mi fa la copertina. Milo Manara è uno dei più grandi disegnatori del mondo ed è tra i più apprezzati. E così via, hai capito? A cercare le cose più belle. Coreografi, Martina Nadalini e Roberto Carozzino, che sono moderni. Io non volevo il balletto, quello, sai, alla Broadway, cioè volevo un balletto fisico, quasi da haka neozelandese, cioè grintoso, perché Venezia in quel periodo era. Nel 1755 era Venezia, seppur decadente, molto passionale, molto fisica. Allora volevo questi balletti pieni di vita, no? E così via, i costumi. Sono andato da Stefano Nicolao a farmeli fare, che ha 7 nomination agli Oscar per i film che ha fatto, pazzeschi in costume. E ha fatto poi lui uno storico del costume, cioè uno che gli dice no, quel bottone lì non c'era nel 700, c'era questo, capito? Per cui filologico, tutto quanto, pur essendo stati realizzati in stoffa di jeans che mi ha dato il mio amico Renzo Rosso della Diesel, perché volevo avere un trait d'union tra il moderno, il rock e il passato, il sinfonico, e quindi il jeans che è stato trattato in una maniera che non sembra jeans. Renzo Rosso è venuto a vedere lo spettacolo con me e mi ha detto: non sarà mia stoffa quella. Io ho detto sì, quella è la tua stoffa, lavorata, sbiadita, scolorita, per cui è venuta una cosa che è assolutamente unica, unica e personale. E poi vabbè, io non giudico le musiche, mi permetto di giudicare le immagini di realtà immersiva che ho realizzato comunque io. E tu sei a Venezia, dopo un quarto d'ora che sei in teatro, ti dimentichi i vicini, le sedie, il sipario e sei a teatro. C'è una scena che entra una barca in scena con tutto il fumo e l'acqua che si muove dietro e tutto quanto, e tu dici, vabbè, hanno ricostruito Venezia in teatro proprio, 30 cambi scena che sono impossibili senza le immagini di realtà immersiva, per cui è venuto veramente un lavoro bellissimo. Il nostro Casanova è uno splendore di attore, di uomo, perché Gianmarco Schiaretti di Parma, peraltro, è un ragazzo con una professionalità, una tecnica canora, un modo di recitare, cioè è quello che tu dici, io vorrei avere un Casanova così sul palco. E mi è andata bene, l'ho trovato. Allora, questo Casanova, come lo racconto io, è in realtà l'essenza del Casanova reale, perché Casanova reale non era solo quello che andava a donne dalla mattina alla sera, era un filosofo, era un letterato, era proprio qui a Bologna cominciò a prepararsi alla letteratura, alla scrittura, era un cabalista, ha inventato il gioco del lotto, per esempio, nessuno lo sa, era una spia per Venezia, gli occhi di Venezia. La spia buona contro gli intrighi, tant'è che lui svela questo intrigo politico che la contessa Margaret von Steinberg viene a Venezia e, intortando l'inquisitore affamato di successo e di egocentrismo, lo intorta proponendogli: noi ti appoggiamo, tu diventerai doge, però tu poi ci passi Venezia a noi, all'Austria. E quindi c'è l'intrigo politico, capito? Ci sono tutte queste storie, per cui il nostro Casanova è un eroe alla fine, quando lui torna a Venezia, dopo aver sventato questo intrigo politico, dopo aver inseguito la contessa fino a Bolzano, nel suo castello, e si vedranno le immagini che abbiamo girato a Bolzano, dentro e fuori al castello, innevato, per cui cioè, 2 anni di preparazione, capito? Quando quando lui torna a Venezia canta, è un grande giorno per questa città, è ritornato fra noi, cioè come un eroe. Ed è forse il finale che avrebbe meritato la vita di Casanova, non finire come bibliotecario lì nell'est, al servizio di un conte in un castello, come bibliotecario, perché è stata una fine, non degna di una storia meravigliosa come è stata la sua vita. Non dimentichiamoci che lui era amico di Madame de Pompadour e ai tempi di Luigi XV era veramente alla corte di Francia, insomma era uno molto, molto ricercato proprio. Ma non perché era bravo con le donne, perché era un uomo interessante, intelligente. D'altronde, di gente a cui sono piaciute le donne ce ne sono stati tanti nella storia, che sono rimasti nella storia, però sono rimasti per altri motivi. Cioè, lui era un uomo di grande livello. Scriveva in francese come in italiano. Oggi c'è un Casanova. Oddio, è molto difficile ed è cambiata la storia, per cui sarebbe anche difficile essere Casanova in quel modo perché. Proteria, giustamente, Me Too ci piccherebbe o piccherebbe il maschietto che si propone come Casanova. No, ci vuole un grande rispetto. Però a me piace il mio Casanova e il Casanova che ho letto e studiato profondamente perché lui aveva un grandissimo rispetto delle donne. Non c'è una donna che l'abbia protestato. Hai capito? Non c'è una donna che si sia lamentata di lui. Hanno sofferto perché lui se ne andava, ma lui le ha sempre trattate con amore e ogni donna che aveva avuto era la più importante in quel momento per lui. E tutte comunque hanno il rimpianto di non stare più con lui e allo stesso tempo un profondo amore ancora per lui.